24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Gigi Donelli e benvenuti a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano oggi è la disoccupazione, livelli record registrati a settembre, particolarmente dura la situazione per i giovani. Il 23% è infatti senza lavoro, una condizione determinata da una crisi economica dalla quale si stenta ad uscire. Anche per questo la Grecia ha dovuto rivedere nuovamente tutti gli indicatori per il prossimo anno. Il PIL si contrarrà più del previsto, in ulteriore crescita, debito e deficit. E ancora entra nel vivo la guerra del bilancio europeo 2014-2020, mentre Germania e Gran Bretagna dicono no al rinnovo del fondo per i lavoratori che perdono l'impiego a causa delle delocalizzazioni. Ancora un dato dunque sulla disoccupazione nell'eurozona, che a settembre raggiunge la soglia dell'11,6%. Nuovo picco per i giovani, quelli senza lavoro salgono al 23,3%, lo ha comunicato Eurostat, che ha nuovamente rivisto al rialzo i dati già da record di agosto. Le cose non vanno meglio nell'Europa a 27. A settembre la disoccupazione era al 10,6%, stabile rispetto al mese di agosto. In rialzo anche il dato relativo all'Italia. Sempre a settembre il tasso di disoccupazione è al 10,8, in rialzo di 0,2 punti percentuali su agosto e di 2 punti su base annua. È il tasso più alto per il nostro paese dal gennaio 2004. Come se non avesse già toccato alte vette, il tasso di disoccupazione dei giovani sale ancora e ora vola a settembre al 35,1%, e mentre si allunga sempre di più la fila dei senza lavoro nella fascia tra i 15 e i 24 anni, 608.000 persone, è ancora il record assoluto in Italia per i disoccupati di ogni età, quasi 2,8 milioni, il 10,8% a settembre. L'Istat lo registra come il livello top dal gennaio 2004. Nel dettaglio dei numeri, che sono persone, il livello record di disoccupati in totale raggiunto a settembre è il risultato di un aumento di quasi il 25% in un anno, e cioè 554.000 unità in più senza lavoro rispetto al 2011. Intanto gli occupati rimangono fermi rispetto all'anno scorso, ma da agosto a settembre c'è stato un calo di 57.000 persone, a essere colpita esclusivamente la componente maschile. Record anche per la disoccupazione nell'eurozona, che a settembre ha raggiunto la soglia dell'11,6%, e con una percentuale arrivata al 23,3%. E in salita anche il mercato del lavoro per i giovani europei. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. La Grecia ha rivisto al ribasso tutti i parametri relativi alla congiuntura economica e ai conti pubblici per il 2013, nel quadro della bozza di bilancio presentata in Parlamento. Il PIL ellenico dovrebbe contrarsi l'anno prossimo, per il sesto anno consecutivo, del 4,5% contro il 3,8% stimato dal governo non più tardi di un mese fa. Il deficit pubblico dovrebbe toccare i 9,4 miliardi nel 2013, mentre il debito pubblico dovrebbe esplodere al 189,1% contro il 179% nella ultima stesura della legge di bilancio. Il volume totale di risparmi richiesti dai creditori internazionali rappresentati nella Troica, l'UE, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Centrale Europea, resta invece invariato a 9,4 miliardi nel 2013. Entra nel vivo la guerra di bilancio UE per il periodo 2014-2020. La Commissione europea ha bocciato la proposta presentata dalla presidenza cipriota di turno del Consiglio, che prevede tagli per almeno 50 miliardi. Sono meno rispetto a quanto chiesto dall'esecutivo, circa 100 miliardi di euro, pari all'1% del PIL dell'Unione. A partire da oggi entrano nel vivo i negoziati tra i 27 e le istituzioni UE per cercare di arrivare ad un accordo. Chiusura debole per i listini europei. Non sono bastati i conti trimestrali di alcune società a dare un po' di carica ai mercati. La crisi economica resta dunque all'ordine del giorno. Il servizio. Chiusura sui minimi per le borse europee che hanno risentito della debolezza di Wall Street nella prima seduta di contrattazione dopo due giorni di stop per l'uragano Sandy. Milano è stata l'unica piazza positiva insieme a Madrid, ha chiuso a più 0,12%, il netto calo dai massimi di seduta, più 1% circa. A penalizzare i listini sono state ancora una volta le incertezze sullo sblocco degli aiuti alla Grecia. Visto il mancato accordo tra i rappresentanti dell'Unione Europea, Fondo Monetario Internazionale, BCE e il governo greco, l'Eurogruppo ha deciso di rinviare ogni decisione su Atene al 12 novembre. A Piazza Affari la peggiore sul FTSE MIB è stata Fiat, che ha perso ancora oltre il 4% all'indomani dei conti e dell'aggiornamento del piano industriale. Per contro, Fiat Industrial ha guadagnato il 3% circa, premiata dai risultati oltre le attese dalla conferma dei target. Bene Prismian, più 2%, che si è aggiudicato una nuova commessa da 400 milioni in Montenegro, e Telecom più 1,6% grazie ai conti delle controllate in Brasile e Argentina. Tra i titoli negativi hanno ceduto oltre il 2% ST ed MPS. Livia Zancaner da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore. In una Europa in difficoltà, in una crisi in cui le banche italiane non hanno avuto parte, l'Italia deve e può fare il possibile per restituire fiducia nella moneta unica. Parla così il ministro dell'Economia Vittorio Grilli in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio. L'Italia deve, attraverso la ricostituzione della fiducia dei mercati, dei risparmiatori rispetto a se stessa, anche contribuire a ridare fiducia nella area dell'euro, in quanto nella più ampia area dell'euro. I governi europei si apprestano a rispondere con la stessa moneta allo schiaffo dell'Europarlamento. Se non vi saranno obiezioni da parte di qualche paese, lunedì il Consiglio europeo procederà alla nomina del lussemburghese Yves Mersch al comitato esecutivo della BCE. Lo riferisce Don Jones citando fonti vicine alla questione. Si tratta di una nomina controversa, osteggiata dal Parlamento, non tanto per la persona di Mersch quanto per il fatto che nel direttorio della BCE non è presente nemmeno una donna. E ora parliamo di smaltimento rifiuti. La Commissione Petizioni dell'Unione Europea ha visitato il laghetto di Monti dell'Ortaccio, dove si vorrebbe creare la nuova discarica per Roma. La delegazione europea ha espresso un parere chiaro. Non servono analisi tecniche per vedere quanto Monti dell'Ortaccio sia limitrofa alle case, all'aeroporto e alla discarica in chiusura. Chiederemo quindi al prefetto Sottile il perché di questa scelta, carte alla mano. Così ha spiegato la vicepresidente del Parlamento europeo, Roberta Angelilli. Con l'avvicinarsi della chiusura della discarica di Malagrotta, il ministro Clini e il prefetto Sottile spingono sull'acceleratore. L'alternativa sembra unica: o la discarica di Monti dell'Ortaccio nei pressi di Malagrotta o i rifiuti in via nazionale, dichiara con ironia il prefetto. Una scelta dettata dalle emergenze e dalla mancanza di alternative. Alternative che invece ci sarebbero per il presidente del 16° municipio della capitale, Fabio Bellini. L'aumento di volumetrie della discarica di Guidonia, e c'è l'aumento di 450.000 metri cubi della discarica di Bracciano stessa. Questo dimostra che lavorando ci sono volumetrie disponibili facendo gli ampliamenti delle discariche nelle altre discariche della provincia di Roma. Anche perché il nuovo sito di Monti dell'Ortaccio ha ricevuto un secco no dall'Unione Europea, troppo vicino a Malagrotta e per di più viziato dalla presenza di una falda acquifera. Il governo sembra comunque intenzionato a continuare su questa strada. Per Clini, ogni volta che è venuta fuori una soluzione abbiamo avuto il gioco dell'oca. Non andava bene all'uno o all'altro, adesso basta giocare. Giuseppe Borello, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Se Berlusconi fa una lista coi contenuti del discorso di sabato scorso, io non ne farò parte, assolutamente no. Così Mario Mauro, capogruppo PDL al Parlamento europeo, alla Zanzara su Radio 24, secondo quanto riporta una nota della trasmissione. Quando l'ho visto in TV, racconta Mauro, sono sobbalzato sulla sedia. Un discorso che mi ha fatto male. È una cosa che mi ha molto amareggiato, soprattutto il passaggio sul governo Monti. No, i contenuti di sabato, che sono quelli poi che enuncia ogni tanto la Sant'Anchè, no? Ma lei è in quella lista con Berlusconi oppure no? Con quei contenuti nel modo più assoluto. E con questo è dunque tutto per questa edizione. Un cordiale saluto da Gigi Donelli. Naturalmente, come sempre, vi ricordo www.radio24.it, la sezione dedicata a Euronet. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.